24 di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Giuseppe Sala, 56 anni, milanese, bocconiano, entra in Pirelli e fa carriera dal 2006, è direttore generale di Telecom Italia, dal maggio 2013 è commissario unico all'Expo. L'8 maggio scorso 200 agenti perquisiscono e arrestano uomini dell'Expo, sembra l'inizio della fine ma non è così, lui resiste e a maggio si apre. Il rischio però adesso può essere quello di diventare il bersaglio ideale per il terrorismo che ha colpito Parigi. Ecco, dottor Sala, l'Expo sembra un bersaglio ideale, lo pensa anche lei? Sì, lo può essere, però è un tema a cui stiamo pensando da un anno e mezzo, quindi ci stiamo preparando. Organizzando sulla protezione, diciamo. Esattamente. Se fossimo a 108 giorni con tutto l'inventario sarei molto preoccupato. So quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Avete fatto abbastanza, secondo lei, per non aver paura? Penso di sì. Stiamo lavorando da un anno e mezzo con il Ministero degli Interni, Prefettura, Questura, con le aziende che ci garantiscono la sicurezza, quindi penso che siamo messi abbastanza bene. Senta, ma ha paura delle rinunce di chi viene invece di chi ha paura e non viene da fuori dall'Europa? No, direi che chi viene, anche in funzione dei fatti Parigi, sarà più attento. Faccio un esempio, so che gli israeliani, che hanno un padiglione importante, stanno pensando alla sicurezza del loro padiglione, quindi la sicurezza sarà composta da quello che faremo noi e da quello che farà i singoli stati. Ecco, dottor Sala, ci sono venuti però 80.000 agenti per catturare 3 terroristi a Parigi, quanto ne serviranno per garantire la sicurezza dell'Expo? Avete fatto un calcolo? Ma innanzitutto, essendo un sito, diciamo, da 1 milione di metri quadrati, prima di tutto telecamere. Avremo 400 telecamere all'aperto e circa 1 migliaio in luoghi chiusi. Dopodiché abbiamo una nostra vigilanza, abbiamo fatto una gara di circa 1 migliaio di persone e in più si aggiungeranno le forze dell'ordine. E quelli poi di ogni stato, come diceva Israele, eccetera. E il vostro sito come lo proteggete? Appunto, telecamere, molte telecamere e comunque anche molta gente, obiettivamente. Senta, la Tour Eiffel dell'Expo si chiama Albero della Vita, si farà? Questo lo dice lei, che è la Tour Eiffel. Per me, io continuo a ripetere, il padiglione iconico è il padiglione zero, però si farà. Allora, il 19, per essere precisi e rispondere tecnicamente, scade il tempo per la gara per la gestione tecnologica dell'albero. Nel frattempo i bresciani lo stanno costruendo, quindi vediamo a Valle Cioè, i lavori sono iniziati? I lavori sono iniziati. E la gara, mi ha detto, finisce il... La gara è stata lanciata, finisce il 19, 20 giorni per l'aggiudicazione e poi cominceranno i lavori. Quindi, insomma, diciamo, tempi strettissimi. Tempi stretti. Avremo 10 giorni poi per i controlli finali. Senta, più che un albero potrebbe essere un alberello alla fine. Bisogna essere pacati. Pacati, quindi alberello, va bene, ok. C'è chi dice che il padiglione Italia è l'emergenza dell'Expo, è vero? No, ma sul padiglione abbiamo recuperato molto. Adesso la preoccupazione è un po' sulla costruzione dove si stanno le regioni e la comunità economica europea, su cui siamo un po' in ritardo e stiamo lavorando con intensità su quello. Ma con la Bracco tutto a posto adesso? C'è sempre un buon confronto, dopodiché è chiaro che spesso anche le cose non si vedono allo stesso modo, ma insomma credo che il fatto che collaboriamo da quasi... Molto diplomatico, mi pare. No, io dico solo, da 5 anni lavoriamo assieme, quindi qualche senso. Nessuno dei due è morto, quindi esatto. Diciamo, va bene. Senta, dottor Sala, oggi, se non sbaglio, sono 145 i paesi che partecipano. Ce n'è rimasto fuori qualcuno che gli dispiace molto? L'Australia. Perché? Ma secondo me è rimasto fuori perché non sono stati molto contenti di quello che hanno visto e raccolto nell'ultima edizione a Shanghai. Quindi quello ci manca. Vabbè, certo, l'Australia è importante. Romania, Ecuador e Sri Lanka rischiano di arrivare all'apertura dell'Expo col padiglione non pronto, è vero? Beh, io credo che la Romania ce l'arriverà facilmente, anche lo Sri Lanka, forse l'Ecuador, la Lettonia è un po' in ritardo per i suoi problemi di gare. Poi, tutto il resto? Ma il resto è a posto, intendiamoci, quando è stato aperto Shanghai, grandissima edizione, un paio di padiglioni, quello americano e quello coreano, non erano finiti del tutto l'interno. Può capitare che un paio di padiglioni, ma quindi non è grave. Ecco, senta, ma a proposito di cantieri che devono finire sul filo di lana, quello della Romonza, che è considerato indispensabile, ci sarà? Ecco, quella è la nostra priorità, ci stiamo lavorando con continuità, quello deve arrivare, quindi deve arrivare, arriva, oppure deve arrivare e bisogna pregare? Allora, penso proprio che ci arriverà, credo che possiamo gestire una settimana o due di ritardo, ma non di più, sennò diventa un problema. La notizia è... Rom Milano, dice Sala, ci sarà. Siamo a posto. Va bene. Senta, dottor Sala, ma intanto è vero che fino a oggi quasi nessun paese ha firmato il protocollo di legalità che è istituito dall'Expo? Allora, il protocollo è facoltativo, ovviamente. L'hanno firmato in 5-6 paesi, paesi anche importanti come la Germania e l'Inghilterra. Però è successo che paesi che non hanno firmato il protocollo hanno avuto problemi con aziende, la prefettura ce l'ha segnalato, noi gentilmente gli abbiamo detto guarda che c'è un problema e queste aziende sono state buttate fuori. Però su 145 paesi sono pochi quelli che hanno firmato. Sono pochi, però anche quelli che non hanno firmato poi hanno dimostrato di essere reattivi, cioè nessuno non ha capito che la musica a questo è cambiata. È quella del controllo tempestivo, insomma è un cerino che gira un po' questo qua. Sì, è un cerino che gira, ma direi che tutti hanno capito che la situazione, cioè non c'è più tempo per scherzare. Senta, ma il meccanismo di costruzione del padiglione in due parole com'è? Noi diamo in un affitto non retribuito, non remunerato ai paesi che costruiscono il padiglione una loro area e loro se lo costruiscono. Tutto ciò ricade al 90% su aziende italiane, quindi diciamo cosa ci guadagna l'Italia? Ci guadagna che questi fanno i lavori. Ecco, i paesi cosa pagano? I paesi pagano. Voi gli date l'area e loro pagano la costruzione. Sì. Ma c'è qualcuno a cui avete pagato tutto voi o no? I paesi in via di sviluppo, i cosiddetti paesi in via di sviluppo, sì. Questo sta nelle regole dell'Expo. Ma sono 53 i paesi che si faranno i loro padiglioni. Il complemento a 145 più o meno sono i paesi in via di sviluppo che li raggruppiamo in fabbricati che facciamo noi. Quindi 140 li pagate voi, diciamo? No, li paghiamo noi una novantina, ma sono in fabbricati che sono enormemente meno costosi. Senta, a proposito di alimentazione di cibo, il tema dell'Expo è una delle ragioni per cui l'Italia ha vinto, era proprio quello. Perché si doveva parlare di cibo? Dove se ne parla? Ma io penso che si stia cominciando a parlare. Faccio un esempio. Perché era uno dei motivi per cui ha vinto l'Italia. No, certo. Abbiamo avuto, come tutti si ricordano, anche qualche scambio di opinioni, ad esempio con Petrini, che dice l'Expo non ha un'anima ed è stato uno stimolo giusto. Adesso ci si sta lavorando. Il 7 febbraio, come annunciato, partirà il lavoro sulla carta di Milano, però vorrei dire prima di questo e poi magari ci torneremo, noi è un anno e mezzo che stiamo lavorando con la Fondazione Feltrinelli sui contenuti dei temi. Ecco, ma anche l'educazione alimentare però nelle scuole doveva essere un tema propedeutico all'Expo, si è fatto qualcosa oppure no? Si poteva fare di più, anche se ci abbiamo lavorato e mi devo dice dire... che si, mi hanno detto che si è dato un po' di materiale di frutta e verdura nelle scuole. Lì si va sulla sensibilità specifica, nel senso che per esempio noi abbiamo già venduto 250.000 biglietti alle scuole di classi che hanno affrontato il tema e poi hanno prenotato una visita. Ma chi è che doveva fare questa educazione alimentare nelle scuole? Fondamentalmente il ministero con i provveditorati. Ecco, quello che le dico voi. In parte si è fatta, in parte no. Soprattutto no, per quello che so, da come ho sentito. Senta, Cisco, Telecom, Coca-Cola, altri grandi sponsor dell'Expo, a parte Ferrero e Illy, cosa c'entrano Cisco, Telecom, Coca-Cola con la buona alimentazione? No, ma loro fanno una parte di attrezzaggio di infrastrutture, cioè noi dovevamo mettere una rete di telecomunicazione. O la pagavamo noi e quindi io chiedevo soldi pubblici, oppure l'ha messo Telecom e Telecom ha messo 30 milioni di valore in cambio alla targhettina, sono sponsor di Expo. Ecco, ma la Coca-Cola è il simbolo della dieta mediterranea per l'Expo? No, però la Coca-Cola approfitterà dell'occasione dell'Expo per far vedere dove andranno i suoi prodotti del futuro. La dieta mediterranea e Coca-Cola, sì, francamente, sì, però, insomma, diciamo che non c'entrano tanto. Sì, diciamo anche che l'Expo Petrini è... la picchia, guardi. Sì, no, diciamo che forse la beve anche lui, non lo so, se buon Carlin lo beve. Però diciamo che questa è un'esposizione universale, non è solo la rappresentazione della dieta mediterranea. Ok, però... Insomma, lei la beve la Coca-Cola o no? No, non la bevo. Io sì. Senta, dottor Sala, adesso il grande appuntamento, lo stava accennando, è quello di una specie di Leopolda dei bei progetti per l'Expo che si terrà a il 7 febbraio, sì, ho detto, a Milano. Ecco, esattamente che cos'è? Sono 40 tavoli che affronteranno e declineranno il tema grande dell'alimentazione e lo affronteranno sia dal punto di vista scientifico e culturale sia per quello che la gente ha in mente quando pensa alla tavola. Quindi avremo per esempio un tavolo gestito dal professor Segre di Bologna sugli scarti alimentari e un tavolo gestito da Buttura, dal grande chef Buttura, sulla ristorazione del futuro. Ma non è potente per avere belle idee per l'Expo a 3 mesi dall'Expo? Questo lavoro però prenderà, assorbirà, ripeto, tutto quello che abbiamo fatto con la Fondazione Feltrinelli in primis, in parte anche con quello che ha fatto la Fondazione Barilla. Però insomma il nostro riferimento è il lavoro fatto dal professor Veca con la Fondazione Feltrinelli. Cioè, alla fine viene fuori un bel libro dei sogni? No, io penso che ci sia qualcosa di più. Qualcosa, cioè, l'obiettivo della Carta di Milano che consegnerete all'ONU è... L'obiettivo è su singoli, e lo è senz'altro, su singoli temi, per esempio quello degli scarti alimentari, che di cui ho parlato prima, sì, di lasciare una traccia importante. Ecco, lei ha parlato anche prima della fondazione Barilla, che ha elaborato un vero e proprio quasi protocollo di Kyoto dell'alimentazione, possiamo dire, e che ha consegnato al primo ministro Renzi. Quella è un po' l'ossatura del discorso, no? Insieme al lavoro della Fondazione Feltrinelli, ripeto, i contributi li prendiamo tutti, dopodiché il drive, la direzione ce l'ha il ministro Martina in questa fase. Senta, restiamo nel campo alimentare. La commessa per la ristorazione è stata assegnata senza gara a Farinetti. Perché? Ma io difendo totalmente questa scelta, ovviamente, diciamo, però abbiamo un campione italiano che va in giro per il mondo a portare la sua qualità e il suo nome, se no facciamo i soliti provinciali. Ripeto, perché si è potuto non far gara? Perché Farinetti ha un carattere di unicità, e cioè è un marchio noto nel mondo e riesce a gestire una complessità del genere. Poi Farinetti farà una parte limitata, su altre cose abbiamo fatto gara. Senta, campione, Cantone è d'accordo? Cantone è d'accordo, che se ne dica. Cantone ha verificato con noi e con il CDA che esiste questo tema dell'unicità quando si pensa a Farinetti. Senta, e il lavoro di Cantone vi aiuta? Ma il lavoro di Cantone ci aiuta enormemente. Quello che è successo da maggio, lei l'ha citato all'inizio, insomma, è chiaro che lui ha aiutato molto a mettere in sicurezza, ma soprattutto abbiamo fatto una cosa importante insieme. Abbiamo anticipato i controlli, prima erano tutti ex post. Tutto ex post, adesso sono prima, quindi non vi rallenta, cioè quel po' che vi rallenta vi dà velocità dopo. No, è ovvio che un po', cioè del lavorio c'è, cioè non è che io e Cantone ci confrontiamo sulle macro idee. No, sulle cose concrete. Ci siamo scambiati 250 comunicazioni da maggio ufficiali, quindi si spacca il cappello in quattro su ogni cosa, certo, e quindi del tempo in più ce ne vuole. Ma poi c'è vedremo. Qualcuno che le dà ragione, perché ci hanno scritto: nelle scuole lombarde c'è stata abbastanza esposizione alle frutta e verdura nelle scuole, detto per onestà, però se i maestri o i professori non si impegnano, hai voglia. È quello che dico io. È quello che diceva lei, dottor Sala. Dopo tutti gli scandali, però, adesso 48 imprese su 367 risultano infiltrate dalla criminalità, cioè 1 su 8. Sembra un film senza fine, questo. Sì, questa è una figura un po' che fa riferimento all'Expo e alle opere cosiddette, certo, opere connesse. Quelle connesse. Però è sempre l'intorno. Sì, diciamo che per quanto riguarda l'Expo noi abbiamo buttato fuori 4 aziende e 2 sono state commissariate. Questi sono i numeri dall'inizio. Con ciò l'attenzione deve essere sempre massima. Senta, ma Cantone ha tutte le armi che gli servono per combattere la corruzione ex ante? Ex ante senz'altro sì. Per qualcuno dovrebbe avere i poteri di indagine come la SEC negli Stati Uniti, lei è d'accordo? Non lo so, attualmente Cantone ha 5 persone e con 5 persone fa tutto quello che può fare. Certamente non sono tante. Ecco, Cantone infatti dice che l'arma più efficace per combattere la corruzione è la soffiata, essendo in 5. Ecco, bisogna che qualcuno vada a raccontare. 5 sull'Expo e poi non so cosa ne ha. No, ma parliamo dell'Expo. Certo. No, allora la soffiata, anche lei è favorevole alla soffiata per combattere la corruzione? No, sono favorevole alla circolazione di informazioni. Poi la soffiata aiuta. Dipende, aiuta, può aiutare. Senta, ma si sente di dire che l'Expo sarà una manifestazione mafia free? Ma mi sento di dire che i problemi li abbiamo avuti e che dai nostri errori qualcosa di meglio si farà in futuro. Sto pensando anche alle Olimpiadi, io sono convinto che sia una buona idea candidarsi per le Olimpiadi. Sì. Ma senta, alla fine che fanno poi quelle strutture? Va bene, parleremo dopo. Senta, lei mesi fa qui da noi si è lamentato del fatto che l'offerta promozionale fosse in ritardo. Avete recuperato o no? Oh, qua c'è una bella novità. Con il ministro Franceschini, molto a breve, nelle prossime settimane, annunceremo quella che sarà l'offerta, il palinsesto dei 1000 grandi eventi in Italia. Lascio a lui ovviamente farlo, l'annuncio, però insomma... Ma me ne dica una, sti bronzi restano dove sono, i bronzi restano là. Ha perso la battaglia veramente contro Renzi. Lo lascio a Franceschini che sta impegnando molto su questa cosa. Li porterà? No, i bronzi no. No, i bronzi no, porta qualcos'altro. Non me ne dica una che porta. No, lasciamo lui, lasciamo lui. Senta, quindi le iniziative su cui conta di più per promuovere le dice tutte Franceschini. No, lei? Ci stiamo lavorando assieme, però ripeto, io quello che vedo è vedo Milano sta facendo molto. Ah, mi permette veramente di aprire una piccola finestra. Nei giorni scorsi il New York Times dice la meta numero uno nel mondo per il 2015 è Milano. Bene. Per l'Expo. Ecco, una cosa del genere in un altro paese, in un paese normale, farebbero un cancan bestiale. Certo. E ci metteremo le medaglie. Da noi nessuno lo dice. Avete speso 6 milioni di euro per fare una convenzione con la RAI, fateli fare la gran cassa. Senta, spera sempre dei 20 milioni di visitatori di cui si parlava? Siamo attualmente esattamente a 7 milioni e 8 di biglietti venduti a dei tour operator stranieri. Ah. Adesso comincia la vendita a uno a uno, diciamo, agli italiani. Ma il biglietto quanto costerà? Ma intorno ai 30 euro più o meno. Ma lei è ottimista quindi sui numeri? Ma se noi arriviamo, come spero, a 10 milioni prima di aprire, credo che poi diventi molto facile. Adesso dipende dagli italiani, sa, dobbiamo raccogliere il consenso di 12-14 milioni di italiani. Senta, dottor Sala, parliamo dell'assunzione. Si era parlato all'inizio, l'ha fatto la Bocconi, 200.000 persone impegnate, poi 70.000, adesso 9.000. Insomma, quanti saranno? No, allora, i numeri che controlliamo come Expo sono i numeri di gente che lavora lì. Lì è il numero. E attualmente lì lavorano circa 4.000 operai. Di dipendenti Expo, quando apriremo, ce ne saranno circa 3.000 e far funzionare la macchina di giorno e notte sono altri 13.000. Poi la Bocconi, che sono i volontari? No, che sono la gente che pulisce, porta dentro merce, porta fuori i rifiuti. Dopodiché, insomma, lei è soddisfatto, diciamo, dal punto di vista delle aspettative erano tantissime. Allora, vedremo sulle ricadute, perché questi numeri da Bocconi misurano l'impatto sul turismo, per esempio. Io quello a consuntivo non lo misurerò mai. Senta, lei, l'abbiamo accennato, per comunicare meglio e di più l'Expo, adesso serve tanto in Italia, ha fatto una convenzione 5-6 milioni di euro con la RAI. Ecco, mesi fa qui ci ha detto che era insoddisfatto, è sempre insoddisfatto? Qualcosa è migliorato, anche perché la RAI sa che dovremmo rilanciare anche poi per il semestre, cioè ad esempio la cerimonia d'apertura. Ma cosa fate? Rifate un'altra convenzione? No, non so cosa faremo, so che noi avremo dei bisogni. Cioè, ma la convenzione la rinnovate o no? La convenzione non la rinnoviamo, rivedremo con la RAI e non solo un accordo per gestire poi anche il semestre. Il 19 dicembre è andato in onda, in prima serata su Rai 1, intanto un programma sull'Expo. Le è piaciuto? Abbastanza, sai, noi ci rivolgiamo, dobbiamo raggiungere una massa importante di italiani. Senta, il critico del Corriere della Sera, commentandolo, invece ha scritto: è andato in onda un programma che un tempo sarebbe stato definito di regime, anzi di regimetto, visto che c'erano tanti bambini. Un'opinione di un critico, quindi vale quello che vale, non sempre vale molto, ma non è proprio un complimento in ogni caso. No, lo so, io stimo moltissimo Grasso, veramente, non per modo di dire. Allora... Però quel programma ha raggiunto 10 milioni di telespettatori. Quindi a torto Grasso? No, a torto Grasso. Grasso dà un giudizio che è un giudizio suo. Io dal punto di vista di marketing dico che sono soddisfatto. Ma che cosa si aspetta ancora dalla RAI con quell'investimento? No, mi aspetto una grande intensificazione in questi mesi della copertura e di tutto quello che stiamo facendo. Cioè oggi, per esempio, chi vede il cantiere, chi vede i padiglioni, ne trae un'immagine assolutamente positiva. Sta cominciando ad arrivare gente, commissari generali, il 7 di febbraio sarà un'occasione. Insomma, raccontiamolo, dice lei. Raccontiamolo, sì. Gli ho dato i soldi, raccontatelo. Raccontiamolo. Ah. Questo che pensa, più o meno. È questo che penso. Va bene, dottor Sala, senta, un problema per il futuro immediato è quello dei terreni su cui si fa l'Expo. Che fine faranno? Ad oggi non si sa, è stata fatta una gara che è andata deserta. In questo momento c'è un incarico dato a due università milanesi, il Politecnico e la Statale, per studiare una soluzione. Credo che il tema sia serio. Il tema importante è: l'area si vende tutta assieme o si vende blocchi? Penso che alla fine si è cominciata ai blocchi, no? L'idea? Bisogna capire se non si riesce a vendere assieme, bisogna provarci ancora. Ma per qualche lei ha mese. La sensazione che si venderà blocchi? No, non lo so dire, non lo so dire. La mia sensazione è che se non si fa una collaborazione pubblico-privato, se non la se prima riesce. Sta andata deserta, era 315 milioni. Insomma, come base d'asta è andata deserta. Credo che ci possono riprovare un'altra volta, ma non di più. Senta, cosa le chiede il senatore Nencini, che è responsabile dell'Expo, proprio su questo tema? Come si sta preoccupando per gestire il dopo, soprattutto per quello che riguarda i beni immobili, le grandi opere che sono state realizzate, per evitare quello che molto spesso leggiamo quando ci sono Olimpiadi, le opere, i capannoni, cosa succederà? La gestione del dopo diventa fondamentale, esattamente come la gestione dell'evento. Beh, molto preciso, lo può tranquillizzare Nencini? No, io posso tranquillizzare Nencini che spero che il 31 ottobre, non posso tranquillizzarlo, spero il 31 ottobre del 2015 di andare in vacanza. Ah beh, spero di andarsene, quindi non è un suo problema. No, eh? Di lasciare a comune regione questo ma tema. Lei quando scade? Tecnicamente scado con l'approvazione del bilancio 2015, quindi ad aprile. Quindi ad aprile, prima che si apra l'Expo. Tecnicamente sì, credo che non ci siano problemi sul fatto, dubbi sul fatto che rimarrò fino alla fine, non dopo, diciamo. Non dopo. Quindi non è Nencini non è un problema di Sala. Spiegherò al caro Nencini che rivolgersi a Pisapia e Maroni. Senta, ma il fatto che sia andato a deserto, però parlando seriamente, è un brutto segno. Il fatto che non è un bel segno, e 315 milioni sono tanti, obiettivamente il tutto è nato con l'acquisto 4 anni fa, in 4 anni è cambiato enormemente il mercato immobiliare, in particolare a Milano. E quindi? E quindi bisogna trovare una soluzione probabilmente un po' diversa, ma non glielo so dire cosa si può fare. Non ce l'ha un'opinione? No, non ce l'ha un'opinione. Senta, ma forse si finirà che si rivendono gli stessi terreni bonificati e con le infrastrutture si rivendono a chi gliel'ha venduti allo Stato? Non penso. No? No, non penso. Non finirà proprio così? Non penso proprio. Non sarebbe la prima volta? No, non penso che lo ricomprerebbero. Ah, non lo ricomprerebbe? Hanno fatto già un affare e basta? Eh? No, perché a questo punto è diventata un'area veramente molto grande, molto infrastrutturata, ma senza un'idea di cosa farci. Può rischiare, come molte infrastrutture proprio di Olimpiadi, eccetera. Penso a quelle a Torino, grande successo alle Olimpiadi, però poi dopo le infrastrutture. Io spero di no, perché vede che poi rimane un ricordo negativo, quindi speriamo proprio di no. Cioè, non è affar mio, ma mi spiacerebbe molto. Ma quanto questo, vedo che lo sottolinea rosso e blu continuamente. Senta, ma quanto costa la struttura dell'Expo all'Italia? Circa 1,3 miliardi di investimento fisso, e quindi pre-infrastrutturare. Poi ci sono 800 milioni di costi di gestione che vengono recuperati dai ricavi. I ricavi sono per un 300 milioni circa da sponsor, e li abbiamo già, per 500 milioni circa da biglietti. Ora, se venderemo i biglietti che pensiamo, andremo a pari. Per rientrare dai costi, questo è il conto che fa. Senta, ma riuscirà l'Expo a essere il fiore all'occhiello che tutti si aspettano? Dopo tutti questi problemi, l'Italia ha dei problemi di lavoro per i giovani tremendi, abbiamo visto che posti di lavoro lì non se ne creano tanti. Fiore all'occhiello, no. Da che punto di vista? Potrebbe essere anche una grande bolla di sapone? Beh, guardi, questo tema dell'attrazione internazionale, delle visite, credo che sia un elemento importante. Dopodiché il tema dei contenuti è importante, ma giudichiamo alla fine. Poi i contenuti, il dibattito, l'anima non lo dà solamente l'Italia, lo danno i paesi partecipanti. Cosa rimarrà è la questione importante. Senta, ma i gufi intorno all'Expo sono molti. Ecco, quali sono quelli che la infastidiscono di più? Ma quelli che non vogliono veramente approfondire il lavoro che stiamo facendo, e purtroppo devo dire che i problemi che abbiamo avuto a maggio, a giugno, le infiltrazioni mafiose hanno creato un'area negativa. Ma le dico, ultima indagine di Voices of the Blogs, il 75% degli italiani è ottimista. Non lo dico io, lo dice un'analisi fatta in rete sull'Expo. Quindi evidentemente anche ma quelli tanti che la infastidiscono di più, che non si aspettava che fossero gufi? No, devo dire che mi dica che, qualcuno non, difficile, buono, difficile. No, ma è difficile fare nomi, cioè chi non vuol capire non vuol perlomeno sedersi con me ad approfondire. Allora mi dice almeno per finire una buona ragione per cui i gufi avranno torto. La credibilità internazionale dell'Italia sarà aiutata da questo. Io sono convinto che verranno milioni di visitatori, vedranno Milano, vedranno l'Italia e riporteranno l'Italia dove le compete in termini di offerta. Non è che dobbiamo soprattutto sperare nel solito stellone, no? No, no, è stato fatto un lavoro serio fino ad oggi. Mix 24. Pietrangelo, fai il titolo dell'intervista sala? Allora, Expo Cola, ma Italy resta sola. E siccome poi c'è anche la questione che la soffiata auspicata, la soffiata aiuta a digerire, farei Delatori e Buongustai. Delatori e Buongustai, beh, mi sembra perfetto. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. È ricominciato l'anno, abbiamo scelto di raccontare anche storie di speranza. Di speranza e positive, una sorta di ricerca dei nuovi mille. Sentiamo chi ha intervistato Sara Tardelli. Mille speranze, mille vite, mille sogni, mille destini, quando si incontrano fanno scintille, fuori dei riflettori si muovono i nuovi mille. Un solo sogno stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Continua Viaggio in Italia, gli agenti del cambiamento, la rubrica che racconta un'Italia che non si arrende, che sogna e si inventa idee di lavoro inedite. Una di queste storie è quella di Emanuele Carissimi, 43 anni, che ha messo in piedi un GAT, gruppo di acquisto terreni. Mi spiega brevemente come funziona il GAT? Il GAT appunto è gruppo acquisto terreni, un'idea per mettere insieme dei progetti e avere praticamente un finanziamento da parte dei privati che condividano il progetto e le idee che stiamo portando avanti. Ma concretamente per progetti intendiamo che voi individuate un terreno? Individuiamo un terreno e costituiamo un'azienda agricola con dei lavoratori che porteranno a produzione questo terreno e quindi di conseguenza reddito. Carissimi, quindi voi avete messo in piedi la vostra impresa, perché di impresa si tratta, senza chiedere mutui o prestiti alle banche? Esatto. Come? Grazie al meccanismo del GAT noi costituiamo delle società, SRL per la difesa degli investitori, dei soci, e ognuno ha la possibilità di mettere da una a quattro quote, in maniera che nessuno sia dominante rispetto agli altri. Noi facciamo un business plan in cui si fa i costi, nel nostro caso era 1.150.000 euro totali, e l'abbiamo divisa in 100 quote. Quanti soldi avete raccolto? 1.150.000 euro. Ecco, perfetto. Sì, abbiamo già fatto tutte le quote. Chi sono i vostri investitori? La cosa che accomuna Milano in questo momento, tenendo conto che buona parte sono i commercialisti, stiamo escludendo gli stipendi ovviamente, e quindi ha un budget di spesa basso. E il risparmio energetico che abbatte i costi? Sì, sì, sia dal punto di vista energetico, con un basso impatto ambientale, dal punto di vista appunto dei consumi. Abbiamo un impianto fotovoltaico già attivo e quindi copre quattro volte il fabbisogno aziendale in questo momento. Carissimi, lei ha detto senza contare gli stipendi, ma voi riuscite a guadagnare o è troppo presto? Allora, noi siamo ancora nella fase iniziale, comunque per un'azienda agricola. Bene o male le spese riusciamo a coprirle in questo momento. In più, con un accordo che abbiamo tra chi lavora e l'azienda, e gli altri soci ovviamente, c'è da una parte l'usufrutto dell'azienda stessa dal punto di vista alimentare, cioè quello che produciamo possiamo mangiarlo, e abitativo, equiparandolo poi a uno stipendio normale. In verità prendiamo di più, nonostante siamo intorno ai 400-500 euro al mese. Quindi, se ho capito bene, carissimi, anch'io potrei comprare una quota? Sì. In quanto socio, cosa ricevo in cambio? Allora, dal punto di vista meramente economico, cosa che però tra l'altro è la cosa che interessa meno ai nostri soci, ci sono due tipi di interesse, nel senso il valore della quota, abbiamo già visto che aumenta nonostante il periodo storico non sia dei migliori, aumenta nel tempo. Quindi noi abbiamo già quasi equiparato le spese col valore dell'azienda dal punto di vista immobiliare. E dall'altra parte c'è una porzione del reddito, nel caso ci sia degli utili, e poi c'è la priorità per quanto riguarda i prodotti, che sono di alta qualità, e ovviamente a un prezzo inferiore rispetto agli altri compratori. Ecco, e la vostra attività in che cosa consiste? Allora, innanzitutto, cioè, quella agricola l'ha detta. Sì, cerchiamo di avere a disposizione agriturismo e produzioni che vanno sia dal fresco come ortaggi e frutta al miele e all'olio. Tutte le produzioni sono senza nessun tipo di trattamento. Chi è che si è inventato il GATT? Il GATT nasce da un'idea di un avvocato, Rosanna Montecchi, che poi è stata aiutata da un commercialista che è Gianluca Marocci, e che ha definito, diciamo, la parte legale e fiscale su cui costruire poi tutto il progetto. E poi dopo i vari GATT, che ognuno è sé stante. Quanti ce ne sono oggi? Ce ne sono quattro, un GATT a Quistello, in provincia di Mantova, uno in provincia di Ferrara, uno in provincia di Parma e il nostro in provincia di Grosseto. Carissimi, lei faceva l'informatico, adesso è un agricoltore. Come è successo? Io ho fatto il movimento contrario, nel senso che ho studiato agraria nelle superiori, mi sono laureato in scienze naturali e poi l'hobby che era l'informatica è diventato mio lavoro per tutta la mia società e l'ho portato avanti sempre col sogno di andare però in campagna. E alla fine è stata lunga, ma alla fine ce l'ho fatta. Chi vuole approfondire la storia del GATT di Emanuele Carissimi può visitare il sito www.italiachecambia.org. 800 24 00 24, 349 238 6666. Racconteremo spesso queste storie per dare anche un segno della speranza che si muove nel paese. Pietrangelo, è morto Francesco Rosi, un grande regista di impegno civile, a modo suo forse anche un poeta. Tu che ricordi? È il segno perfetto, quel film dove il sottofondo era il silenzio, quasi senza colonna sonora, restituiva appunto la realtà alla verità ufficiale che invece la nasconde sempre. Il segno perfetto poi si è concretizzato nella scena finale della sua vita, la coppola sulla bara. Quello è Francesco Rosi. Grande ricordo. Musica. E noi due siamo i due più stupidi, io e te. Però leghiam benissimo, perché giochiamo come stupidi e poi scoppiamo di colpo a ridere. E noi due. Oggi questa? Oggi questa perché in metropolitana ho visto un ragazzo e una ragazza. Non so se tu hai presente, se gli ascoltatori hanno presente, se in regia gli amici hanno presente quella sensazione tutta speciale di sentirsi scimuniti. E appunto c'erano due in metropolitana, una ragazza e un ragazzo, e tutti intorno a loro invece pallidi e smunti, tristi e importanti, tutti noi pendolari, mentre loro due con quell'aria stupida che scoppiavano a ridere, guardavano gli altri passare, e loro appunto, il ragazzo e la ragazza, persi nel mondo incantato della stupidità, altro mondo non avevano che quello dell'amore più acerbo. E ho incontrato ancora una volta il filosofo e osservandoli mi ha detto, proprio lui che era stato fermato dai controllori della metropolitana, che ne custodisce più l'amore di enigmi di quanti ne possa risolvere una macchina intelligente, fosse il tornello per attraversare i corridoi. E siccome questi ragazzi con l'aria stupida sono stati fermati ai controlli e stupidamente avevano dimenticato i loro abbonamenti, oggi è stata tutta una gara a pagargli. È importante. Si agitan tristi e confusi e forse sono intelligenti. E noi due. Mix 24. Oggi Mario non c'è perché è impegnato altrove. Allora Pietrangelo, sono tutto tuo. Mi fai questo salamino? Salamino. Salamini quirinari o quirinali, che dir si voglia. Ecco la campanella. Giorgio Napolitano verga ben tre lettere. Una di queste lettere alla presidenta Laura Boldrini, che è... Ecco, la terza carica dello Stato. Un'altra lettera viene vergata e indirizzata al presidente Pietro Grasso, che è... seconda carica dello Stato, appunto presidente del Senato, destinato a far da supplente. E l'ultima, infine, va invece al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che comunque un coniglio dal proprio cappello lo dovrà pur far uscire. Sarà del Partito Democratico, ha detto Matteo Renzi. E così, volendo trarre una morale da cotanta favola, così nell'Italia, dove la maggioranza degli italiani non è di sinistra, con tutti i vertici, e la Camera, e il Senato, e Palazzo Chigi, e la Corte Costituzionale, e i condomini, e il Vaticano, tutti quanti occupati dalla sinistra, con ogni probabilità tornerà al Quirinale un bel comunista. E diciamo, tanto peggio per la maggioranza degli italiani che non è di sinistra, che non sa darsi rappresentanza né politica né culturale. Ci sarà dunque il saluto ai corazzieri domani. Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta vando a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio. Stupidi, e il nuovo inno firmato e cantato da Giorgio Gaber sarà questo, ascoltate. E noi politici, che siamo tutti un po' psicosomatici, sensibili ai problemi più drammatici degli stomaci, non con la mente ma visceralmente abbiamo i nostri slanci. E noi politici, che siamo tutti un po' psicosomatici, sensibili ai problemi più drammatici degli stomaci. La sua Livia, vero? No, non l'avrebbe passata con la sua Livia la notte di Capodanno. C'era stata tra loro due una terribile azzuffatina di quelle perigliose, perché principiano con la frase cerchiamo di ragionare con calma e finiscono inevitabilmente a schifio. Questa la indovinerei forse quasi quasi anch'io. 800 24 0024, numero verde 349 238 6666. Sentiamo Sara che cosa ci racconta dopo la sua intervista. Vai dallo psichiatra? Sì, da 15 anni soli. Da 15 anni? Sì, gli concedo un altro anno, poi vado all'URL. Questo si chiama Seralin Retard, cioè cessione graduale di ketazolam nell'arco di 24 ore. Quindi per 24 ore uno è completamente coperto dall'ansia. Sono passati gli anni e avevo un analista sia allora che adesso. E sono a 6 analisti di distanza. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai spranghiate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Sì. Perfetto. Volevo sapere se ti era rimasta un po' di... no, quelle cose che dicevi, cos'è, quelle tisane, lì, passiflora. Insomma, ho una buona notizia per tutte le persone che rimuginano, quelle che vivono preoccupate per il presente, il futuro e anche per i ricordi. Insomma, se siete ansiosi e vi sentite dire che vi dovete curare, c'è una scoperta che può farvi più felici di un Prozac. Un'università canadese ha studiato un gruppone di studenti e li ha sottoposti a vari test. Beh, è emerso che gli ansiosi cronici hanno un'intelligenza verbale nettamente superiore alle persone che vivono tutte paciose, sempre in pace con loro stesse, belle equilibrate, ma meno capaci di convincere e coinvolgere con il linguaggio. Quindi essere in cerca di un centro di gravità permanente tra ansie e pensieri ossessivi in realtà è un atteggiamento positivo. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Salamino! Salamini di comandamenti! Cioè... è stato finalmente trovato l'undicesimo comandamento. Si sapeva che fossero solo 10, no? Ce n'erano ancora uno. Ed è, sapete qual è? Allora, ricordati di deliberare la notte di San Silvestro. È successo a Roma, dove Ignazio Marino Tomo Tomo, cacchio cacchio, il 31 di dicembre ha trovato il modo di firmare la determinazione dirigenziale che rilasciava l'autorizzazione paesaggistica per la manutenzione della villa di Roberto Benigni, che ce l'ha a Tor Pignattara, cioè no, un face, e non possiamo non compiacerci di ben due motivi, tutti di virtù e di pia applicazione, perché intanto abbiamo scoperto l'undicesimo comandamento ed è ricordati di deliberare la notte di San Silvestro, e poi l'altro motivo fondamentale è che sto povero sindaco ha trovato anche il modo di fare recapitare l'autorizzazione a Benigni malgrado i vigili fossero tutti decimati, per buona metà tutti a casa per malattia. E ancora una volta una dedica, ancora e di nuovo l'inno dei politici. E noi politici, che siamo tutti un po' psicosomatici, sensibili ai problemi più drammatici degli stomaci, non con la mente ma visceralmente abbiamo i nostri slanci. Gianfranco da Torino per il Canzoniere, buongiorno Gianfranco. Buongiorno Giovanni. E come va? Bene, molto bene, perché sto passeggiando al Parco della Pellerina, che lei conosce. Ah, fantastico. Fa bello a Torino? No, è nuvoloso, però è un mese che sembra di essere ai Caraibi. Ah, che meraviglia. E allora? Sì, sì. Hai indovinato passeggiando? Ma credo, non so, Andrea Camilleri, il commissario Montalbano. Bravissimo. No, mi spiace, il titolo non è questo. E certo che Camilleri è Camilleri. E dagli il titolo. Il titolo. In regia sono buoni. Allora c'è la regia. Vabbè, la Tardelli ha detto che ha vinto lo stesso, perché ha azzeccato. Vabbè, allora lo dico io il titolo. Ha azzeccato Montalbano. Sì. Gli arancini di Montalbano. Grazie mille. Vabbè, mezzo libro, le manderemo mezzo libro. Grazie, arrivederci. Nel 1927 William Boeing, un grande imprenditore dell'aviazione americana, entra nel mondo dei servizi postali ed è una grande intuizione. I dipendenti di Boeing si mettono all'opera, decidono di creare il miglior aereo postale mai costruito. Si chiamerà Modello 40, un aereo all'avanguardia che suscita le invidie degli altri imprenditori. E per la Boeing è un momento di trionfo e di rivoluzione. Per vincere l'appalto, dovevano costruire un aereo capace di battere la concorrenza. L'aereo vinse senza problemi. Fu fondamentale per il successo della Boeing nell'aggiudicarsi questo contratto, che era il contratto più importante e che prevedeva il trasporto della posta da San Francisco a Chicago. Era un nuovo modo di concepire l'aviazione, che per la prima volta immaginava di far viaggiare insieme passeggeri, posta e merci. Era la prima volta nella storia degli Stati Uniti che i passeggeri, le merci e la posta venivano unificati su una rotta aerea. Una rotta lunga 2000 miglia da San Francisco a Chicago. Ecco, con Marina Milone dopo il giornale radio racconteremo la storia di questo grande imprenditore dell'aviazione americana, William Boeing. Pubblicità.